GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. Atene e Milano, queste le capitali del calcio nostrano questa settimana. Domani sera gli azzurri di Lippi impegnati in amichevoli in Grecia. Poi sabato riflettori su San Siro per il big match di Serie A tra Inter e Juventus. Intanto la panchina d'oro, il premio per il miglior allenatore dello scorso anno, va proprio a quel Roberto Mancini che a Sky Sport ha parole di stima per quel Mourinho, ora al timone dell'Inter che il Mancio ha portato al tris tricolore. Ci siamo salutati come normale che sia, insomma, tra colleghi, ci conosciamo, quindi niente di particolare, ma non, insomma, un saluto come con tutti, ci mancherebbe altro. Mourinho è un grande allenatore, un grande personaggio, come tutti i grandi personaggi fanno parlare molto, e questo mi sembra abbastanza normale. L'Inter era già forte negli anni passati, quest'anno si è rinforzata, quindi credo che sia ancora la candidata numero uno a vincere il campionato. E per i media spagnoli potrebbe essere proprio Mancini uno dei candidati a sostituire sulla panchina del Real Madrid Bernd Schuster, cui il club spagnolo ha rinnovato una fiducia a tempo visti i pessimi risultati di questa fase di stagione. Alla sfida tra Inter e Juventus guarda intanto il patron nerazzurro Massimo Moratti, che spinge Ibrahimovic verso il pallone d'oro e pregusta il duello tra lo svedese e il bianconero del Piero. Quasi un dispiacere che debbano essere antagonisti l'uno dell'altro, perché sono due giocatori e due persone formidabili, e sottolineo per Del Piero anche perché non mi aspettavo che fosse sempre più forte, sempre più leale nel gioco, è veramente un grandissimo giocatore. Mi dispiace sul serio che non giochi in nazionale, perché sarebbe bellissimo vederlo. Per la nazionale invece è tempo di esperimenti. Contro la Grecia Lippi insegue il 31esimo risultato positivo consecutivo in azzurro. Sarebbe record, ma il CT pensa soprattutto al gioco. L'amichevole nel contesto di una squadra che deve costruire in due anni attraverso una 15-18 partite la sua identità per poi fare delle cose importanti è una cosa importante, non è una cosa da poco. Mi piacerebbe meno fare un pareggio giocando malissimo e facendo netti passi indietro nella costruzione del nostro gruppo, piuttosto che invece vedere la squadra giocare benissimo e magari perdere all'ultimo minuto per un calcio di rigore, ecco, preferirei la seconda. Intanto la Roma si gode il successo nel derby, firmato dal gol di Baptista e dalle parate di Doni, ma il portiere respinge l'idea di un clan verde-oro a guida dei giallorossi. Siamo la Roma, non abbiamo giocato Brasile-Argentina, abbiamo giocato Roma-Lazio. Secondo me dobbiamo pensare come tutti pensano lì dentro i spogliatoi, che siamo una squadra, siamo la Roma, indipendentemente di quale nazionalità ci sono. In Serie B finisce 1-1 lo scontro al vertice tra Empoli e Grosseto, posticipo della 14esima. In classifica le due toscane guidano con 25 punti, uno in più di Sassuolo e Bari. Per la pallavolo nel posticipo dell'ottava di A1, Pineto batte Modena 3-0. E chiudiamo con la Formula 1, già ripresi i test Ferrari in vista della stagione 2009, ieri a Barcellona in pista i collaudatori Badoer e Genet con una F2008, sotto osservazione affidabilità del motore e assetto. Oggi si replica. Vi ricordo l'appuntamento alle 14 con A Tempo di Sport. Un saluto da Dario Ricci.